Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Che bello iniziare con le favole. Sì, vi raccontiamo la favola di Rosetta, la bella addormentata nello spazio. E lo saprete subito dai titoli. Poi incominciamo. Il risveglio della bella addormentata. Vi raccontiamo la favola di Rosetta. Accidentalmente ti si rompe uno specchio. Il tuo gatto nero, per lo spavento, urta il barattolo del sale. Sgattaiola sotto la scala e attraversa la strada a un ignaro passante. Sarà venerdì 17, nonché il tuo giorno fortunato. È possibile progettare pneumatici che autoproducano l'energia elettrica per funzionare? È la domanda di Biagio. Il cervello e la dieta. Cosa accade nella nostra testa quando decidiamo di diminuire di peso? La favola di Rosetta. Rosetta è... C'era una volta, iniziano tutte le favole, no? E quindi... Però c'è ancora. C'è ancora, anzi, assolutamente. Si è risvegliata. Sì, si è risvegliata il 20 gennaio, intorno alle 19:18 ora italiana. Qualcuno le ha dato un bacio dalla terra. Dalla terra e lei ha risposto. E lei ha risposto. Ha aperto gli occhietti e si è riattivata. In realtà stiamo parlando della sonda Rosetta, lanciata dall'Agenzia Spaziale Europea nel lontano 2004 e che ora si è risvegliata. Per parlare di questa favola più concretamente, più scientificamente, abbiamo questa sera con noi Alessandra Rotondi. Buonasera Alessandra. Buonasera. Docente di fisica all'Università Napoli Partenope e anche responsabile di uno degli strumenti che riuscirà a stare intorno alla cometa e alcuni andranno anche sopra per capire tante cose che dovrebbero essere tutte molto affascinanti. Alessandra Rotondi, allora, possiamo avere qualche dato generale? Questa cometa quanto è grande? Allora, in realtà si tratta di un corpo abbastanza piccolo, diciamo il nucleo ha le dimensioni di circa 4 km, in realtà diciamo la misura esatta si saprà solo una volta che saremo lì, come tanti altri parametri si dovranno definire appunto attraverso la missione Rosetta. Comunque il diametro stimato è intorno ai 4 km e ha un nome quasi impronunciabile, Kuryumov Gerasimenko. Sì, è un po' complicato da dire effettivamente. E a noi cosa ci serve andare ad acchiappare una cometa? Allora, diciamo che in generale le comete sono interessanti perché sono dei corpi che in qualche modo mantengono le informazioni di composizione, le caratteristiche, ecco, della nebulosa protopolare, perché quando il nostro sistema solare si è formato con un determinato materiale che in qualche modo è rimasto come testimone solo in quei corpi che hanno vissuto ai margini del sistema solare, in questo caso appunto sono le comete. Gli altri pianeti sono pianeti attivi che quindi evolvono nel tempo, mentre le comete sono dei piccoli corpi che in qualche modo però hanno grandi segreti mantenuti, diciamo, dal momento della formazione del sistema solare. La missione di Rosetta è straordinaria sotto diversi aspetti. Il primo è che è partita nel 2004, è stata attivissima fino al 2011, poi si è addormentata, adesso le chiediamo il perché, per risvegliarsi qualche giorno fa e adesso nei prossimi 2 anni raggiungerà la cometa. Come mai c'è questo iter stranissimo per cui una sonda si addormenta poi si risveglia? Diciamo che il motivo principale di questo periodo di ibernazione, che è durato 36 mesi appunto dall'8 giugno 2011 al 20 gennaio 2014, è stato un periodo in cui la cometa si trovava, la sonda si trovava veramente molto lontana dal Sole, diciamo fino a 790 milioni di chilometri, e in questo periodo è stata messa in ibernazione per una sorta di risparmio energetico, diciamo, molto lontana, quindi non poteva vedere l'energia prodotta dai pannelli solari e non c'erano operazioni critiche da fare, dunque è stata proprio messa in ibernazione, non c'era neanche segnali a terra, non c'era assolutamente comunicazione con la Terra, aveva solo un orologio interno con una sveglia, un timer che effettivamente l'ha fatta risvegliare per fortuna. Noi abbiamo seguito tutti con grande tensione perché naturalmente era un passo critico della missione. Non era detto, certo. Era un po', poi il segnale è arrivato, doveva la finestra del ricevimento del segnale iniziava alle 6:30 del pomeriggio e poi il segnale è arrivato alle 7:20. Quindi, sì, insomma, era una bella dormigliona, non voleva svegliarsi. Diciamo che ha dovuto fare una serie di operazioni, diciamo, a terra era, il controllo era completamente passivo, ecco, dovevano solamente attendere. Certo, però dormiva, ma proseguiva con un piano ben prestabilito in modo da trovarsi in rotta positiva verso la cometa. Esattamente. Ecco, noi vorremmo arrivare al suo esperimento. Diciamo solo al volo però che una parte della sonda cercherà di depositarsi sulla cometa e farà un po' di buchi, un po' di trivellazioni. Tra un paio d'anni forse. Tra un paio d'anni, così. Allora, no, in realtà è più vicino, diciamo, l'obiettivo è perché si faranno le prime misure già da maggio 2014 e quindi in avvicinamento verso la cometa. Poi diciamo ad agosto, più o meno agosto e settembre, sarà una fase molto critica perché ci sarà la caratterizzazione da parte degli strumenti che sono a bordo di Rosetta del nucleo su cui poi bisognerà rilasciare il lander a novembre 2014. Quindi in realtà la fase, diciamo, clou della missione è vicina. Abbastanza del resto ci sono solo 9 milioni di chilometri, ecco, che le mancano. Che sia. Certo, niente. Quindi diciamo è che oramai siamo arrivati. Tutta la missione è molto difficile e sappiamo che c'è appunto un'apparecchiatura che scenderà, si depositerà sulla cometa. Qui però noi vorremmo sapere qualcosa invece del suo esperimento, di quello che coordina lei con i suoi collaboratori, Giada, che deve andare a indagare il materiale, la chioma che esce dalla cometa. Allora, depositarsi sulla cometa lo si può fare, diciamo, senza disturbi, sarà difficilissimo, ma com'è che la sua apparecchiatura invece sta in coda? Diciamo, il compito di Giada sarà proprio quello di studiare la dinamica di questi grani che vengono emessi dal nucleo man mano che l'attività della cometa si sviluppa, quindi la dinamica dei grani, nel senso che si dovrà conoscere una sorta di distribuzione della velocità dei grani all'interno della chioma cometaria. Mm-hmm. Poi si vorrà definire la massa dei grani e in qualche modo, con le attività che facciamo a terra di calibrazione, riusciremo a sapere qualcosa anche sulla composizione dei grani. Naturalmente questo sarà uno strumento dedicato a una caratterizzazione globale della chioma, quindi avremo informazioni un po' su un quadro completo e Rosetta guarderà un po' più da lontano, ma non troppo, tutto sommato, per capire diciamo un po' tutti gli aspetti della cometa. Quindi poi, mettendo insieme le informazioni, naturalmente si conosceranno molto meglio questi corpi, il che ci aiuterà anche a conoscere meglio tutto l'aspetto di formazione del nostro sistema solare. Quindi non vi mettete proprio in coda, girate intorno a questo esattamente flusso. Esattamente. E a che distanza? Allora, la distanza sarà variabile, appunto la minima distanza dalla cometa lo spacecraft lo raggiungerà a 3 km durante il rilascio del lander. E poi si dovrà necessariamente allontanare perché, come sapete, Rosetta ha dei pannelli solari enormi che man mano che l'attività della cometa aumenterà, diranno un po' l'effetto di una barcavela nella tempesta, dunque non potrà più star troppo vicino al nucleo per questioni di sicurezza dello spacecraft, quindi man mano si allontanerà, quindi arriverà a orbite circolari, diciamo, di 30 km. E possiamo prevedere per quanto tempo, insomma, riuscirà a rimanere lì e poi anche qual è il destino, immagino, insomma. Allora, tutte queste apparecchiature dove andranno? Allora, diciamo, la sonda seguirà il nucleo fino a dopo il perielio, cioè quando la cometa si avvicinerà, raggiungerà la minima distanza dal Sole, e quindi diciamo per almeno 8 mesi la sonda continuamente monitorerà l'attività della cometa. A quel punto, quando l'attività della cometa sarà diventata troppo alta, perché lo spacecraft stazioni troppo vicino al nucleo, molto vicino al nucleo, allora inizierà una fase di flyby, cioè lo spacecraft si allontanerà molto dalla cometa e si avvicinerà solo per intervalli di tempo molto brevi a distanze dell'ordine di 10-7 km dal nucleo. Farete degli agguatini. Alessandro Rotondi, grazie, ci sentiremo fra qualche mese, siete un bel gruppo, insomma, lì a lavorare su questa cosa, no? Sì, assolutamente sì, infatti mi fa piacere sottolineare che il lavoro è veramente un lavoro di squadra di tante persone e dei ragazzi, assegnisti e dottorandi che lavorano in laboratorio. Bravi, perché... allora fateci sapere, davvero un buonissimo lavoro. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio, con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta, con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto. Vabbè, ma quella del sale io l'ho provata, cioè quando cade due dietro la spalla sinistra e uno verso la spalla destra. Sì, ma l'hai provata, vuol dire che se non lo fai, quando non l'ho fatto ho avuto qualche piccola grana, niente. No, di... io non ci credo. Sì, quella funziona. Io sostengo che la fortuna e la sfortuna non esistono. No, questa quindi del tu sale... quando sei nella vasca da bagno fai come Lino Banfi, questo no, famosissimo a tavola spezzone. Ti cade il sale, due spizzichini li butti sulla spalla sinistra e uno sulla destra. E se ti attraversa un gatto nero? Quello non ho fatto verifica, non l'hai mai poi fatto. Purtroppo ho un gatto nero. Specchio rotto? Mi inquieta. Vabbè, un po' sei superstizioso. Io assolutamente no, non è vero, non lo so. Allora, va bene, parliamo di superstizione. Perché? Perché nel 2014, aprite bene le orecchie superstiziosi, abbiamo due venerdì 17. Ah, però quello uno è seconda dei paesi, uno è appena passato. E tu hai avuto conseguenze tragiche? Io direi... Non ci ho fatto mente locale. Ecco, e allora vuol dire vedi? Che non sei così no. Schiavo della superstizione. Vabbè, allora noi, diciamo, approfittando di questo, abbiamo pensato di raccontare un po' agli ascoltatori quali sono gli aspetti che stanno dietro la superstizione, soprattutto aspetti, mi viene da dire, psicologici, ecco. Sì, quindi certo. Siamo andati a chiedere un esperto del CICAP, che è il Comitato Italiano contro le Affermazioni sulle Pseudoscienze, che proprio venerdì 17 hanno tenuto anche delle conferenze in giro per l'Italia su questi temi, e quindi è qui con noi stasera Silvano Fuso. Buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Buonasera Fuso. Lei ha scritto per il CICAP Superstizione e istruzioni per l'uso, in che cosa si crede e perché. Fuso, intanto, che cos'è la superstizione? Ma noi potremmo definire una superstizione come una credenza in fatti empiricamente rilevabili, la cui esistenza però non sia sostenuta da dimostrazioni concrete. È bene fare riferimento appunto ai fatti empiricamente rilevabili, perché le fedi, diciamo le credenze di carattere metafisico, per definizione non sono controllabili dal punto di vista sperimentale. Certo. Però, nonostante questo, sono tantissimi i soggetti che credono in qualche modo e da sempre ad alcuni veramente fatti che così sembrerebbero inspiegabili, però lei nel suo libro qualche spiegazione la dà. Ad esempio Federico diceva, quando si rovescia il sale, ma perché mai uno se lo deve buttare dietro la schiena? Ma dunque, l'origine delle superstizioni è abbastanza difficile da individuare con precisione, ma ad esempio gli antropologi che si sono occupati a lungo di questi problemi hanno sostanzialmente formulato delle ipotesi. Ad esempio, relativamente al sale, e lo stesso si può dire anche per l'olio, nell'antichità questi due prodotti erano estremamente preziosi, per cui avevano veramente un valore materiale, per cui il fatto di versarli rappresentava di per sé un danno. Sì. Ora, oggi sappiamo benissimo che il sale e l'olio non sono più così costosi, però evidentemente è rimasto nella tradizione, no, questo tipo di atteggiamento che considera malaugurante questi eventi. Ai tempi dei romani il sale era una paga addirittura, no? Infatti una il, parte termine, della il paga. Termine salario deriva da dal fatto che alcuni soldati appunto venivano retribuiti con determinate quantità di sale. Appunto era un bene estremamente una prezioso, perdita dannosa, quindi solo che lì bisognerebbe capire poi perché la contromossa dovrebbe essere un certo gesto. Esatto. Questo invece credo che sia complesso. Quello non si è riusciti a capire esattamente quale possa essere l'origine. Di solito in queste, diciamo, manifestazioni scaramantiche le cose hanno sempre, diciamo, una doppia faccia. Ad esempio, non so, le persone gobbe solitamente sono considerate portatrici di sfortuna. Però è vero. Stesso, toccare la gobba è considerata portatrice di fortuna, per cui c'è sempre questa ambivalenza, per cui siccome il sale appunto nel caso in cui venga versato accidentalmente lo si considera malaugurante, il fatto di gettarne volontariamente una certa quantità dietro la schiena invece assume un significato opposto. Ma perché? Cioè per una questione psicologica? Ma è chiaro che alla base delle superstizioni ci sono sempre motivazioni di carattere psicologico e di carattere emotivo sostanzialmente. Oltretutto gli psicologi, i neuroscienziati si sono occupati di queste tematiche cercando proprio di fornirne una giustificazione. Diciamo che la motivazione di fondo che porta alla nascita delle superstizioni è sostanzialmente un tentativo di dominare la realtà. Noi sappiamo benissimo che insomma, nella realtà accadono continuamente moltissimi eventi nei confronti dei quali noi siamo totalmente impotenti. Ora, nelle superstizioni invece ci si illude in qualche modo di controllare gli eventi, quindi di stabilire illusoriamente ovviamente dei rapporti di causa ed effetto, e questa illusione di controllare la realtà ha un effetto consolatorio. Ma forse anche perché siccome sono antichissime, quindi vengono da tempi dove noi come umani subivamo tutto, no? Avevamo paura anche del lampo, del tuono, se la pioggia era troppo forte, allora bisognava assolutamente cercare di dominare. Poi dopo le cose sono notevolmente cambiate, ma la traccia è rimasta, questo è il problema. Sicuramente, anche oggi. Sicuramente. Da un certo punto di vista, cioè anche la scienza ovviamente è sempre alla ricerca di rapporti di causa ed effetto proprio per cercare di razionalizzare e di controllare anche ciò che ci accade intorno. Solo che la scienza, prima di accettare per buoni questi rapporti di causa ed effetto, ovviamente procede a dei controlli accurati. Nelle superstizioni invece questi controlli non vengono fatti, per cui si assume per buoni, no, determinati rapporti di causa ed effetto senza che nessuno si sia mai preso la briga appunto di controllare se siano fondati. E anche forse nella vita quotidiana il fatto che uno dica che giornata sfortunata, che periodo sfortunato, che periodo fortunato, in realtà è un'etichetta, è un'accezione che noi diamo ad un periodo in cui ci succedono delle cose che indubbiamente insomma non dovremmo dire, tu dici sfortuna, sì, perché in realtà a quel punto gli diamo la marchiamo invece, certo. Come dire, c'è anche un altro discorso da fare, perché c'è il discorso anche delle profezie che si autoavverano, no? Cioè ad esempio i soggetti che si ritengono profondamente sfortunati, non so, quelli che credono di essere stati colpiti dal malocchio, da qualche altro tipo di maledizione, a un certo punto si autosuggestionano talmente da rovinarsi la vita con le proprie stesse mani. È vero. E questo consolida sempre di più la loro credenza, per cui si innescano dei circoli viziosi mentali che appunto gli psicologi chiamano profezie che si autoavverano, perché per il semplice fatto di crederci, no, si ottengono ulteriori conferme alla certo, propria stessa credenza. Certo, sto attento in quella direzione lì e prima o poi qualcosa trovo. Qualcosa di negativo mi capita, certo. E questo mi consolida la mia credenza. Accennavo prima agli studi fatti dagli psicologi e dai neuroscienziati, e ultimamente ci sono stati dei risultati piuttosto interessanti, perché si è cercato di dare proprio una interpretazione alla nascita di queste superstizioni, di queste false credenze, anche proprio dal punto di vista evolutivo. In sintesi, cioè siamo solo noi superstiziosi o in realtà c'è qualcosa di innato? No, è proprio insito, diciamo, nella natura umana, e non solo, perché è stato dimostrato che anche alcuni animali possono generare dei comportamenti superstiziosi. Ed era proprio quello che le stavamo per chiedere, addirittura gli animali, quindi. Cioè? Certo, ci sono stati studi estremamente interessanti, ad esempio lo psicologo americano Skinner aveva fatto dei curiosi esperimenti utilizzando i piccioni. Ora, i piccioni erano stati per così dire, addestrati ad azionare una leva che produceva l'erogazione di cibo. A un certo punto poi gli stessi piccioni sono stati messi in gabbie truccate, cioè in cui l'erogazione del cibo avveniva in maniera del tutto casuale. Ora, è stato notato questo, che se ad esempio un istante prima che il cibo venisse erogato, casualmente si stava beccando le piume del petto, il piccione stabiliva erroneamente un rapporto di causa ed effetto, per cui lui poi successivamente continuava a beccarsi ossessivamente le piume del petto nella speranza che il cibo venisse erogato. E questa, se andiamo a vedere, è una superstizione, perché il piccione, no, poverino, aveva creato illusoriamente un rapporto di causa ed effetto. Un altro studio interessante era stato fatto invece da un etologo tedesco di nome Curio, il quale non solo dimostrò appunto che gli animali possono sviluppare un comportamento superstizioso, ma addirittura dimostrò che all'interno di una comunità animale queste superstizioni potevano essere trasmesse, per così dire, culturalmente. Ecco, proprio come succede nella specie come umana. Come succede a noi. Gli esperimenti in pratica consistettero in questo. Lui utilizzò dei merli come soggetti, non più piccioni ma merli. In pratica ai merli veniva mostrato un rapace, quindi un predatore nei confronti dei merli, e contemporaneamente veniva mostrato ai merli un oggetto del tutto innocuo, che so io, una bottiglia colorata. Ora, chiaramente i merli che vedevano il predatore si spaventavano e successivamente, facendo vedere l'oggetto innocuo, quindi ad esempio la bottiglia colorata, i merli si agitavano perché associavano la presenza della bottiglia colorata alla presenza del rapace. E vabbè, fin qui nulla di strano. Ma la cosa ancora più interessante fu la seguente. Questi merli, diciamo così, condizionati, vennero messi in libertà all'interno di una comunità di merli. Ora, dopo un po' di tempo, tutti i merli appartenenti a questa comunità cominciarono ad avere paura nei confronti della bottiglia colorata. Quindi ci fu proprio una trasmissione culturale di quella che possiamo chiamare a tutti gli effetti una superstizione. Questo esperimento dovrebbe far capire anche un po' a noi, insomma, l'origine di queste nostre credenze che hanno poco di vero. Questi comportamenti che accomunano noi umani anche ad altre specie animali trovano una giustificazione, una spiegazione proprio in termini evolutivi. Evolutivi, certo. Il discorso è questo. Il fatto di avere questa fortissima tendenza, no, a stabilire dei rapporti di causa ed effetto sostanzialmente aiuta la sopravvivenza. Se io mi trovo ad esempio in un bosco e vedo un ramo rotto, ora la cosa che mi viene spontaneo pensare è che sia passato un predatore che abbia spezzato il ramo. Ecco. Magari il ramo sia stato spezzato da un colpo di vento o da qualsiasi cosa casuale, però il fatto, no, di pensare che possa avere un'origine causale, quindi associata alla presenza di un predatore, mi mette sul chi vive. Se sbaglio ci perdo poco, no, ma se fosse vera la mia supposizione, questo chiaramente mi garantisce la sopravvivenza, certo. Quindi i neuroscienziati interpretano, no, questa tendenza della nostra mente a trovare dovunque rapporti di causa ed effetto proprio in termini di evoluzione biologica. Va bene, grazie mille Fuso per questa lezione sulla superstizione. A presto. Attenzione gatti, arrivederci. Arrivederci, buona serata. Chiara, siccome ormai di domande che si sono arrivate, che abbiamo tentato di rispondere, sono veramente tante, sì, mi sto interrogando sui precedenti. Secondo me con i pneumatici è la prima volta che ci incontriamo. Dunque, non ricordo altre domande. No. Quindi è una prima. Pneumatici. Deve essere una prima, forse avevamo parlato di qualche tecnologia, ma mai domande relative. Non domande. È una domanda abbastanza tosta, devo dire. Si vede che il nostro ascoltatore è preparato, non anticipiamo nulla. Una domanda di carattere un po' ingegneristico, un po' fisico, insomma andiamo alla parola a Biagio. Quanto d'un cristiano cristallo piezoelettrico viene applicata una compressione, produce energia elettrica. Se anneghiamo una serie di cristalli tra la carcassa e il battistrada di una ruota di una macchina ogni volta che la ruota tocca terra, e quindi si deforma, dovrebbe produrre energia. Questa energia raccolta potrebbe ricaricare le batterie di una macchina ibrida. Che cosa ne pensate? Biagio ci pone questa domanda anche molto ben articolata, quindi noi dobbiamo andare da un ingegnere del Politecnico di Torino, intanto lo salutiamo. Buonasera professor Aurelio Somà. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Lei al Politecnico di Torino è docente di progettazione meccanica e costruzione di macchine e insomma le lasciamo certo la parola per rispondere al nostro Biagio. Forse dobbiamo ricordare prima un po' caratteristica del piezoelettrico. Innanzitutto, come avete detto, la domanda è abbastanza tosta, nel senso che è una domanda che mi stimola a introdurre un argomento piuttosto interessante, che è quello del recupero dell'energia dal movimento. Direi che è necessario introdurre innanzitutto la proprietà della piezoelettricità. La piezoelettricità è una proprietà di alcuni materiali che sono in grado di generare una differenza di potenziale quando sono soggetti a una deformazione meccanica, quando sono sostanzialmente deformati. Però la domanda dell'ascoltatore stimola a introdurre un argomento tecnico che in generale possiamo chiamare quello del recupero dell'energia dall'ambiente circostante, dal movimento. Che ci interessa tanto oggi, insomma, per la sostenibilità. Esatto, infatti queste tecnologie vanno sotto il nome di energy harvesting, per usare un termine anglosassone. Harvesting significa mietitura o raccolto. In pratica si tratta di dispositivi elettromeccanici che raccolgono l'energia che sarebbe persa ed inutilizzata e che possono trasformarla in energia elettrica, immagazzinandola solitamente in sistemi di accumulo, quali ad esempio delle batterie. Viene citato spesso in televisione un dispositivo che viene utilizzato per il recupero dell'energia dal movimento, che è il cosiddetto KERS. Il KERS viene utilizzato in Formula 1. Formula 1. Esattamente. Non è nient'altro che un generatore elettrico che viene posizionato nelle ruote del veicolo. Cioè, sostanzialmente, questo dispositivo consente di recuperare l'energia cinetica che sarebbe consumata durante la frenata di un veicolo. Immaginiamoci che un normale veicolo tradizionale, l'energia cinetica viene tra virgolette buttata via e trasformata dai freni in calore e poi dispersa nell'ambiente. Invece questo dispositivo denominato KERS, noto appunto al grande pubblico, permette di trasformare l'energia cinetica in energia elettrica. Ecco, mi scusi, nella Formula 1 questo dispositivo genera accumulo di energia che a un certo momento i piloti possono utilizzare per avere più velocità, più prestazioni della macchina, no? È fatto in questo modo. Esattamente. Quindi cosa succede? Che in alcuni casi particolari il pilota può utilizzare questa energia che viene immagazzinata nelle batterie ed utilizzarla ad esempio per un sorpasso. In ogni caso l'energia recuperata da una frenata dobbiamo pensare che rappresenta solo una piccola parte dell'energia necessaria per far muovere un veicolo durante un suo normale ciclo di lavoro. Solo che in Formula 1, poiché le differenze sono frazioni di secondo, quel tanto in più che viene dato può fare una differenza significativa. Esatto, può fare una differenza significativa come un booster, sostanzialmente come un'aggiunta di potenza che permette di effettuare una determinata operazione. Quindi diciamo che questi sistemi di accumulo ci sono e in qualche modo appunto funzionano. Però nel caso ad esempio del movimento proprio del pneumatico, potrebbe in qualche modo generare energia e poi a sua volta essere accumulata e quindi essere utilizzata? Durante l'avanzamento gli pneumatici sono sottoposti a deformazioni cicliche per tutta la durata del moto. È chiaro però anche qui che bisogna entrare in una corretta valutazione dell'effettiva energia disponibile prima di poter progettare la trasformazione mediante un energy harvest. Mi spiego meglio. L'energia disponibile è un elemento elastico, come può essere il pneumatico, e l'energia di deformazione. L'esempio dell'applicazione piezoelettrica è sicuramente un esempio molto interessante. Infatti è possibile annegare delle fibre o delle strisce piezoelettriche di materiale piezoelettrico nei normali materiali da costruzione meccanica. L'esempio che ho fatto del KERS nella Formula 1 mi permette di dire che su una Ferrari Formula 1 il KERS installato ha una potenza di circa 50 kW. Mm. Quindi parliamo di energie dell'ordine di grandezza dei kilowattora. Per quanto riguarda invece un elemento che recupera l'energia dalla deformazione, noi purtroppo parliamo di milliwattora, a volte parliamo, quando va bene, di wattora. Quindi quello che lei dice è di non facciamoci ingannare dal fatto che lo pneumatico della nostra macchina fa tanti giri per tante ore tutti i giorni, perché il tipo di deformazione a priori genera pochissimo. In ogni caso, dalla deformazione possiamo recuperare 1000 volte di meno, a volte 1 milione di volte di meno, che non ad esempio dall'energia cinetica. Quindi la sua risposta alla domanda dell'ascoltatore è: sì, è vero, si può recuperare questa energia, ma non è conveniente dal punto di vista progettuale, insomma. Beh, la mia risposta è, diciamo così, in parte quella che lei ha anticipato, in parte vuole essere l'introduzione a come risponderei all'ascoltatore, mirando la sua intuizione in un'altra direzione. Nel senso, tuttavia, gli energy harvester possono recuperare una quantità di energia sicuramente non sufficiente a far muovere il veicolo, ma può essere utile per fare altre operazioni. E qui ci addentriamo in quella che è una nuova frontiera, direi piuttosto anche sentita dal punto di vista della letteratura scientifica, delle applicazioni di tecnologie degli energy harvester per la diagnostica e il monitoraggio. Possiamo fare l'esempio dei carrelli ferroviari, dei treni merci, dove abbiamo sviluppato e brevettato un sistema che è denominato vita intelligente. Questo sistema è in fase di testing e potrà trovare spazio probabilmente in uno spin-off del nostro incubatore di imprese presso il Politecnico. Cosa permette di fare questo dispositivo? Permette di monitorare malfunzionamenti delle ruote dei carrelli, solito dei treni merci, che come sappiamo non hanno la disponibilità di un'alimentazione elettrica cablata. Non è così semplice posizionare dei sensori come elementi di diagnostica nei cosiddetti grandi veicoli, in cui non sempre si può effettuare un cablaggio elettrico. Quindi l'energy harvester miniaturizzato, o quantomeno opportunamente dimensionato, può svolgere una funzione cruciale. Cruciale, assolutamente cruciale. Sia nel monitoraggio dei veicoli, dei grandi veicoli, e anche, perché no, l'esempio del pneumatico, tornando e chiudendo sulla domanda dell'ascoltatore, in cui è possibile inserire energy harvester, direi sia piezoelettrici ma anche magnetico-induttivi, che sfruttando le sollecitazioni cicliche della rotazione del pneumatico permettono di alimentare sensori di diagnostica e trasmettere senza fili a una centralina elettronica a bordo parametri funzionali, quali pressione, o registrare eventualmente malfunzionamenti dinamici. Quindi l'intuizione del nostro Biagio, dai, non era sbagliata. Deve essere un po' diretta diversamente. Grazie, professor Sommà, e buon lavoro. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Sto per farvi un invito pressante, forse qualcuno ha già capito che sto anche per parlarvi di nanotecnologie. È così, Möbius insieme all'inserto Nova di Scienza del Sole 24 Ore è impegnato e coinvolto in questo progetto europeo sulle nanotecnologie. Ugualmente abbiamo in Inghilterra il Guardian, in Spagna il Mundo, il Courrier in Francia. Scopo di questi progetti europei qual è? È quello di fornire, produrre comunicazione in merito ai vari temi che ci possono essere nelle applicazioni delle nanotecnologie, in questo caso parleremo di tessuti, e poi vedere in che modo questa comunicazione ha prodotto delle impressioni, delle sensazioni, dei giudizi in voi che ascoltate appunto questa comunicazione. Quindi vi chiedo di andare al sito della trasmissione, che è www.moebiusonline.eu. Nell'home page trovate tutto facilmente, andrete all'audio della trasmissione, lo ascoltate e partecipate a questo sondaggio. Naturalmente l'Unione Europea non è che vuole indirizzare i vostri giudizi sulle nanotecnologie, noi andiamo a vedere dove c'è il nero, dove c'è il bianco, dove ci sono tutte le zone grigie, facciamo un lavoro di informazione assolutamente classico e normale e attento, e però abbiamo bisogno dei vostri giudizi. È importante partecipare a questi sondaggi. oggi, perché insomma, se vogliamo costruire questo grande paese che chiamiamo Europa, abbiamo bisogno anche di vedere come, dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista emotivo, questa nostra comunità si confronta meglio su tutti i temi più vari. In questo caso noi parliamo di scienza. Allora, www.moebiusonline.eu e partecipate, per favore, grazie. Sentite questo passaggio di una conferenza TED tenuta dalla neuroscienziata statunitense Sandra Amott. This is a study that looked at the risk of death over a 14-year period based on four healthy habits. Eating enough fruits and vegetables. Ecco, teniamo sotto, lei che parla, lei sta facendo vedere due grafici che sono il risultato, diciamo, di un'indagine fatta su persone piuttosto grasse, abbastanza obese, e persone normali. E che cosa fa vedere? Fa vedere quali sono, come dire, su un certo lungo periodo, insomma, la mortalità di queste persone. E lì si vede che le persone un po' cicciotte che non fanno esercizio, insomma, hanno una certa percentuale di mortalità elevata rispetto alle altre persone normali che invece ne hanno meno. Ma se entrambe fanno esercizio, quello che viene fuori è che tra cicciotti, Chiara, e normali, sostanzialmente le cose sono uguali. È una provocazione che lei fa per dire: pensate, se abbiamo addirittura questi dati, quello che viene fuori è che quando parliamo di diete non è inutile parlare, perché non è vero che sono fondamentali, basta fare un po' di esercizio e le cose vanno bene. Ora sì, noi stiamo chiaramente semplificando, però il tema di tutta questa conferenza, esatto, è proprio questo, cioè lei si interroga sul fatto che la dieta possa o meno essere di successo, efficace. E lei sostiene di no. Di no. Però noi adesso qui, con il nostro ospite che presentiamo subito, non entriamo nel fare o non fare dieta, perché Sandra Amott quello che sostiene è che non serve perché fare diete, perché intanto il nostro cervello, quando voi siete dimagriti, quando noi siamo dimagriti, immediatamente riparte in quarta e noi per tornare al peso non tuo, c'entra, ecco, ce l'abbiamo nel DNA. E per capire un po', ecco, questo rapporto strano tra dieta e cervello, siamo andati da un neuroscienziato. Le diamo il benvenuto, Luigi Cattaneo, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Lei è neuroscienziato del CIMEC, che è il Centro Mente Cervello di Trento, e quindi insomma le chiediamo un po' che cosa succede nella nostra mente quando ci imponiamo di perdere peso. Ma dunque, la Sandra Amond ha completamente ragione a dire che una dieta nel lungo termine è probabilmente poco efficace, perché il peso corporeo è una di quelle caratteristiche del nostro corpo che sono regolate in maniera molto fine dal nostro cervello e in maniera purtroppo del tutto involontaria, per cui nel nostro cervello c'è una parte di cervello che si chiama ipotalamo, che contiene un peso bersaglio a cui il nostro corpo deve corrispondere. Per cui nel momento in cui noi perdiamo questo peso bersaglio, il cervello farà di tutto una volta terminata la dieta per farci tornare al peso bersaglio precedente. Diciamo che funziona un po' come un termostato, se noi lo impostiamo ai 18 gradi non ci si scappa, cioè se scende la temperatura si accendono i caloriferi, se sale si spegne. Solo che tu, Chiara, hai detto se noi lo impostiamo, e lei, Cattaneo, immagino che quello che ha appena detto noterà che c'è una cosa suggestiva, no? Cioè lei dice noi possiamo fare quello che vogliamo e intanto il nostro cervello, insomma, stiamo parlando di uno sdoppiamento, no? Assolutamente. Diciamo che quello che possiamo fare con la volontà su comportamenti elementari come l'alimentazione richiede qualcosa di limitato e richiede uno sforzo continuo di volontà. Nel momento in cui ci lasciamo andare, ci distraiamo per qualsiasi motivo nelle nostre vite, pensiamo abbiamo altre preoccupazioni, e lì immediatamente i comportamenti automatici ci fanno riprendere peso. Proprio per questo motivo questo è un funzionamento tipo termostato. Intendiamoci, non è una cosa cattiva, è una cosa, cioè l'omeostasi che è garantita dalle strutture ipotalamiche è fondamentale per la vita, ecco, senza ipotalamo non camperemmo più di poche ore, perché pensate per esempio allo stesso meccanismo che regola la sete. Noi dobbiamo avere tanta acqua e tanti sali nel nostro corpo, e l'ipotalamo gestisce i comportamenti di ricerca di acqua o di rifiuto dell'acqua per mantenere una quantità di liquidi in un certo range nel nostro corpo, e questa è una funzione che è tanto quanto quella dell'alimentazione, e capiamo quanto sia importante, quanto sia fondamentale per la vita. Lo sdoppiamento purtroppo serve, nella no? nostra, lo sdoppiamento serve assolutamente. Purtroppo nella nostra società, in cui il cibo è incredibilmente disponibile, facilmente disponibile, cibi oltretutto grassi, cibi ricchi di calorie, questo è un meccanismo che è maladattativo, è andato fuori controllo, un meccanismo che era utile nelle situazioni di sopravvivenza in cui il cibo non è abbastanza, ma che è un meccanismo che in questa società è andato fuori controllo. Ecco, noi a scanso di equivoci diciamo che in questo caso noi non facciamo riferimento a persone che si mettono a dieta perché hanno problemi di metabolismo, perché hanno problemi di allergie, eccetera, artrosi, eccetera. Non entriamo nel problema, appunto. È altra storia, ecco, è tutto un'altra cosa. Noi qui ci interrogavamo proprio, ma cosa succede nel cervello quando io mi impongo di diminuire il peso? Ed è un argomento che si sono posti tanti neuroscienziati, e anche lei ce lo confermava fuori onda, è ormai assodato, consolidata questa cosa, che appunto il nostro cervello è settato su quel, diciamo, valore, e difficilmente cambia. Ci sono stati tanti esperimenti che l'hanno consolidata questa conoscenza da anni. Il ruolo dell'ipotalamo nel mantenimento del peso corporeo è noto da oramai forse quasi 100 anni, cioè su tutti i libri di fisiologia, su tutti i libri di testo di fisiologia, a un certo punto ho trovato una foto di due topolini, uno che pesa 4 etti e l'altro che pesa 1,5 kg. Sì. Quello che pesa 1,5 kg è un topolino a cui è stata provocata una lesione sperimentale di quella parte dell'ipotalamo che provoca il senso di sazietà, che gestisce il senso di sazietà. Questa foto la trovate veramente su quasi tutti i libri, oppure il gatto obeso, il gatto magrolino, perché proprio fa parte degli studi classici. Questa cosa per la fisiologia è una cosa nota da veramente molto tempo, che c'è una regolazione omeostatica da parte dell'ipotalamo. Ecco, però scusi Gaetano, mi viene questo, siccome nasciamo tutti, anzi siamo proprio piccolini che pesiamo pochi grammi, e poi dopo insomma veniamo al mondo intorno ai 3 kg, 4 kg, però com'è? Non è che pesiamo tutti allo stesso modo, cioè valore qui è fissato personale, anche nell'evoluzione delle staminali che poi si differenziano, c'è già un numero lì dentro? Com'è? Ci sono sicuramente delle componenti genetiche, nel senso che studi su gemelli dimostrano che c'è una componente genetica sulla tendenza a avere un peso bersaglio alto o basso. Però la cosa più grossa, senza dubbio, purtroppo il fattore più grosso sono i comportamenti che assumiamo da fin da piccoli. È lì che nel si senso fissa. Che oramai le abitudini alimentari. Abitudini alimentari, esattamente. È più che assodato oramai che se si è cicciottelli da piccoli si tenderà a essere cicciottelli anche da grandi. È estremamente importante dare buone abitudini alimentari ai bambini fin da piccolissimi. Lei in questo momento sta dando molto dolore ad alcuni dei nostri ascoltatori, ma va bene. Però è così, è così. Però perché l'altra così. Cosa, il problema che la fa molto semplice in questo talk, nel senso che parla solo di uno dei due meccanismi per cui l'essere umano va alla ricerca di cibo e si alimenta, nel senso che è ampiamente dimostrato che nei mammiferi esiste un sistema neurale che è quello ipotalamico, che gestisce appunto l'omeostasi e che ha feedback negativo, tutto sommato non va male, nel senso che non ci fa dimagrire ma non ci fa neanche ingrassare. Ecco, sì. E poi c'è un sistema invece drammaticamente legato a meccanismi di reward, di ricompensa, un sistema cosiddetto l'alimentazione hedonic feeding, lo chiamano alimentazione edonistica, che anche quello è regolato da strutture nervose, nel sistema nervoso centrale, che invece è un meccanismo additivo, nel senso che non ci si stanca di mangiare per provare soddisfazione. È lì per cui l'interazione fra questi due meccanismi genera dei loop sempre crescenti, per cui il rischio è sempre quello che mangiando per non piacere, per fame, ma per che, piacere, certo. Il mio ipotalamo si resetta a un livello più alto, per cui non riuscirò mai più a dimagrire. è veramente un meccanismo perverso, purtroppo. E qui addirittura siamo in presenza di due funzionamenti un po' profondi del cervello che entrano un po', fanno un po' braccio di ferro tra di loro, praticamente. Esatto, e che se nel momento in cui si potenziano l'un l'altro è la fine, perché danno un loop che non si autocontrolla, ma danno una sequenza di eventi che portano a essere sempre più pesanti. Tornando all'esempio dei bambini, per esempio, una cosa assolutamente da non fare è usare il cibo come ricompensa. Se fai il bravo ti do il gelato, è una cosa che segnerà i comportamenti alimentari del bambino sempre, per sempre. A letto senza la torta, no? A letto senza la torta. Letto, sì, cioè, il cibo non va mai usato come premio. Ci pensano già le papille gustative a dare una scarica di ricompensa al cervello nel momento in cui assumiamo degli zuccheri semplici o dei cibi grassi. Abbiamo fatto il quadro, direi. Abbiamo capito. Direi di sì. Speriamo che, insomma, anche gli ascoltatori abbiano capito che, vabbè, chi si vuole mettere a dieta può farlo, certo, quindi noi raccomandiamo sempre un'alimentazione regolare, insomma, senza troppi eccessi. Giustamente la Hammond conclude molto bene dicendo: mangiate solo quando avete fame, e questo c'è effettivamente dentro tutto, c'è scritto, chiaramente dice non state a mettervi dieta, mangiate solo quando avete fame, e questo dall'altro, se si legge in negativo, vuol dire non mangiate quando non avete fame, non mangiate per piacere. È triste dirlo, ma questo è l'unico modo per effettivamente mantenere un peso fisiologicamente corretto e in armonia col proprio cervello. Ecco, riceveremo centinaia esatto. di mail dalle associazioni ristoratori, soprattutto in Italia. No, assolutamente. Bisogna mangiare con intelligenza. Andiamo adesso a fine puntata a farci due spaghettini io e Federico. Grazie davvero. Grazie Cattaneo. Grazie a voi, arrivederci. Mannaggia Chiara, mi si stava freddando la carbonara. Io ho una fame che il mio cervello proprio mi dice devi mangiare la carbonara. Ho fatto 4 etti a testa, dovrebbero bastare. Benissimo. Buona settimana a tutti e tutte.